Radio Wombat in punta di pedale, edizione speciale per la Critical Mass virtuale. Installate Critical Maps, l'app per seguire la Critical Mass, e fate uno screenshot di tutti i partecipanti e poi inondate i social. Da un'idea di Michelangelo Alimenti. bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Con la tua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga e non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco, con un carrollo al seguito può fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la pendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Secondo me è un gioiello di tecnica applicata, il genio dell'umanità sta in una pedalata. È il fiore all'occhiello dell'ingegneria, infallibile congegno, ad orologeria. Ce ne andiamo in piazza, per il centro oppure al mare, lei mi porta al parco a far la spesa, a lavorare. Col sorriso in faccia e con il vento tra i capelli, sempre in giro insieme, che momenti sono quelli. Pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare, pedalare. Per un mondo più pulito questa è l'unica ricetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Contro la cultura del consumo usa e getta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se vuoi essere felice come un tempo dammi retta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Puoi viaggiare in tondo oppure andare in linea retta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo stress, vola sull'asfalto, sul serrato, sul pavè. Fa bene allo spirito, benissimo all'ambiente, non esiste mezzo di trasporto più efficiente. Se incontro una salita e la storia si fa tesa, prima ancora che sia finita già pregusto la discesa. Vando alla pigrizia, dico largo all'allegria, tutti in sella a pedalare in compagnia. Veleggio, pedalo senza fretta, plano e galleggio sulla mia bicicletta. Velocipede, che grande invenzione, con la bici noi faremo la rivoluzione. Velocipede, che grande passione, libera la mente, il corpo e l'immaginazione, con la benedizione di Santa Graziella, santa tutelare di chi viaggia a pedivella. Niente più benzina, niente bollo da pagare, tanta pasta asciutta e poi trazione muscolare. Velocipede, che grande invenzione, sviluppa l'endorfina, attiva la circolazione. Velocipede, yeah, yeah, che grande passione. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is lie. I want You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man. I don't wanna be the president of America. I say smile, I say cheese, Cartier, I say please, income tax. I say Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I wanna do is ice, yeah, ice, I want to ride my bicycle, bicycle, come on, bicycle. I want to ride my bicycle. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Dai! Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze, le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia, il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. Una bella bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. Che va, pedalante mobilità, nel suo portapacchi quel che ci fichi ci sta. Una bella bici che va, pedalante mobilità, anima testarda di una coccarda vivrà. Una bici la si ama come l'ultima delle fantasie. C'è uno scatto che ti chiama, come il fischio che hanno le frenesie. Nel senso è piaciuto fare grandi girate in bicicletta. Da giovane ho fatto la Firenze, Viareggio e ritorno. E qua ho passeggiato un po' meno, però ho girato parecchio, stavo spesso a Cormons, a Udine, a Gorizia, e una bella gita è stata da Trieste a Grado e ritorno. L'ho fatta, mi pare, 2 anni fa, e prima di tornare mi sono fermato a mangiare in trattoria, ho poi ripreso la strada per Trieste. E quindi è bello andare in bicicletta a vedere, si vede tante cose e si può fare dei percorsi molto più lunghi che a piedi, e però osservare il paesaggio, vedere tutti i dettagli e sentire l'odore della terra, l'odore delle piante, cose che in macchina non si possono certo apprezzare. Quindi la bicicletta è forse il mezzo più ecologico e più divertente. Alfonsina, alle tette sgonfie. Alfonsina si faceva fino alla mattina. Alfonsina, alle gomme piene. Alfonsina, Alfonsina, una ragazza, questa storia non conviene. Alfonsina ha le gomme piene. Alfonsina, che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene. Alfonsina ha le tette sgonfie. Alfonsina si faceva fina fino alla mattina. Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale. Comunque vada, Alfonsina strada. Alfonsina arriverà. Comunque vada, Alfonsina strada. Dove c'era Alfonsina ormai c'è una zona wifi. E con gli occhi l'ho cercata tra le stelle, quelle che a Milano non puoi più vedere, tra le parabole sui balconi affacciate come lune belle, ad una stella che mi guardava dalla cucina. Ho dato un nome al Alfonsina, ad una stella che mi guarda dalla cucina. Ho dato un nome a Alfonsina. Alfonsina arriverà. Comunque vada. Alfonsina arriverà. Comunque vada. Alfonsina arriverà. Comunque vada. Alfonsina arriverà. Comunque vada. Alfonsina ha le gambe dure. Gambe dure e sicure. Alfonsina ha le spalle strette. Alfonsina lacrime di ciada. Alfonsina strada, Alfonsina strada. Alfonsina ha sudore come orcace. Così sono andato a vedere la sua vecchia bottega da corridore, laggiù sulla Varesina, dove lei aspettava in vetrina. Coppi, Bartali, Magni, Martini, a parlare di nuovi copertoni, di fughe, di volate, discese, salite, passi alpini. Ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato un nome al Alfonsina. Ad una stella che guardava dalla cucina, ho dato un nome a Alfonsina. Ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato un nome a Alfonsina. Ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato un nome a Alfonsina. I've seen it never possible.